una sopa di indolini, e sta prima di setenta, già passate ventari, siamo che voi tu vuoi fare, una sopa di indolini, e sta prima di setenta, già passate ventari, siamo che voi tu vuoi fare, siamo già noi. Oh.